America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The austerity part of the program will, I'm confident, gradually subside. Il presidente del Consiglio Mario Monti, lo avete sentito in una delle tante interviste a una televisione americana, in questo caso con Maria Bartiromo, una delle grandi anchorwoman della finanza della CNBC. Monti sta per arrivare qui a New York alle 3:30-4 del pomeriggio, intorno alle 10 ora italiana, per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si aprirà formalmente domani mattina. Prima di affrontare la tematica voglio anticiparvi un'altra cosa importante che avviene questa settimana a New York. Si apre, sempre a partire da oggi, il Social Media Week, che è una manifestazione internazionale dedicata alla comunicazione digitale. Noi vogliamo aderire riprendendo il nostro esperimento di social radio, quindi vi invito a twittare a @ Mario Platero per discutere con noi e darci le vostre opinioni. One thing is to absorb at the same time recession, extreme austerity, plus the first portion of structural reforms. Bene, torniamo a Monti. Parla di cose economiche, una cosa introdurre delle misure per rimettere a posto i conti, avviare delle riforme, altra cosa e vedere gli effetti di queste misure e di queste riforme sulla crescita e sul mercato del lavoro. Ho aperto sulle questioni economiche perché Monti a New York si occuperà anche di questo. Avrà una cena martedì sera con degli investitori americani, sarà al Council on Foreign Relations giovedì, dove parlerà con americani importanti di quello che è successo in Italia, di quello che sta capitando in Italia, poi una colazione a porte chiuse di nuovo con gli investitori. Dunque la questione economica resta sempre in primissima linea. Ma la parte, devo dire, più importante, secondo me, di questa visita in America, a New York, del Presidente del Consiglio, riguarda il suo debutto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e l'esame di Monti, posso dirvi, secondo me, è già stato superato in qualche modo. L'altro giorno ero a Washington, ho incontrato al Dipartimento di Stato dei funzionari molto senior, le parole di apprezzamento per il nostro governo, beh, devo dire, sono stati, si parlava da record naturalmente, e proprio per questo forse valevano di più, ma sono state piuttosto importanti. E soprattutto si è ripetuto questo concetto, cioè che Monti svolge un po' un ruolo di ponte tra Stati Uniti e Europa, tra Europa e il resto del mondo, tra Italia ovviamente e Stati Uniti e il resto del mondo, e direi in questi giorni è l'occasione per poter trovare una cassa di risonanza per il suo messaggio e per quello che riguarda il futuro e la prospettiva del nostro paese nel contesto degli affari politici internazionali. L'Italia resta un alleato chiave degli Stati Uniti, ma soprattutto resta uno dei principali contribuenti dell'ONU, sia per missioni di pace, sia per contributi finanziari. Ma torniamo al contesto d'insieme, cioè l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, devo dire, avviene in un momento molto particolare. Abbiamo un presidente americano che sta cercando di essere rieletto, ma abbiamo anche un'America ferita per le dimostrazioni che ci sono state in Libia, in Egitto, in 20 paesi arabi. Un momento di grande tensione, una situazione siriana non risolta, insomma è un crocevia questo dell'Assemblea Generale che capita in un momento direi particolarmente delicato. Ci saranno tre argomenti centrali secondo me che saranno affrontati a questa Assemblea Generale, sia nell'Assemblea che nei lavori a margine, cioè i diritti umani, la questione dei diritti umani, la questione della riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la questione siriana. Ho con me i microfoni di America 24 l'ambasciatore Cesare Ragaglini, il nostro rappresentante permanente alle Nazioni Unite, che ha così organizzato, seguito la preparazione di questi lavori. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a lei. Bene, allora siamo arrivati al dunque, perché oggi è lunedì e questa sera cominceranno formalmente i lavori con il ricevimento offerto da Barack Obama, se non sbaglio. Esatto, è così, inizia la settimana ministeriale, anche se in giornata ci avrà luogo questo incontro di alto livello sullo Stato di diritto, che serve poi a cercare di favorire lo sviluppo di una sovranità responsabile degli Stati attraverso la diffusione dei principi che sono ispiratori dello Stato di diritto. E questo ha come obiettivo quello di avanzare, diciamo, la garanzia sui diritti umani. La garanzia sui diritti umani, l'accesso all'indipendenza del sistema giudiziario, la lotta all'impunità, la lotta alla corruzione, il primato del sistema legale, quelli che sono i grandi principi riconosciuti per lo Stato di diritto. L'altro tema, spinoso ovviamente, perché è il never ending resolution, quello della riforma del Consiglio di Sicurezza. Finora siamo riusciti a gestirlo molto bene, a bloccare, diciamo, quei continui tentativi di attacco per da una parte escluderci e dall'altra far avanzare altri paesi, Brasile, India, Germania, Giappone, soprattutto Germania che è un paese europeo. A che punto siamo? C'è un rischio, c'è un pericolo che ci sia qualche colpo di mano? No, non nel corso della settimana ministeriale, questo non sarà oggetto di riunioni o di incontri, ma proprio una settimana fa siamo passati ormai dalla 66esima alla 67esima sessione dell'Assemblea Generale e quest'anno hanno avuto luogo tutta una serie di incontri negoziali per cercare di far avanzare questo processo. Se noi dovessimo fare una proposta come Italia per questa riforma, cosa vorremmo? Noi riteniamo che le proposte che individuino in un allargamento del Consiglio a ulteriori membri permanenti siano delle proposte anacronistiche, che non servono a rendere il Consiglio più efficiente e più efficace rispetto alla situazione attuale, e riteniamo quindi che il Consiglio deve essere più responsabile nei confronti degli Stati membri e pertanto noi proponiamo un allargamento soltanto fra i membri non permanenti, che devono comunque essere eletti, quindi passare al vaglio delle decisioni e della valutazione degli Stati membri. Parliamo di Siria. Cosa vede sul fronte siriano dal punto di vista di un progresso? C'è qualche possibilità da questi colloqui? Guardi, la Siria rappresenta un po' un indicatore della differenza che c'è fra il clima che si respirava l'anno scorso, in questo stesso periodo, alla vigilia dell'Assemblea Generale, e quello di quest'anno. Mentre l'anno scorso era dominante sicuramente il sentimento della speranza con le primavere arabe che avanzavano in tutti i paesi, mentre quest'anno certamente abbiamo dovuto constatare che quegli elementi che l'anno scorso avevano concorso a risolvere tutta una serie di crisi, a cominciare da quella libica, non sono più presenti come prima all'interno delle Nazioni Unite, ma sono prevalenti gli elementi di contrasto, e la Siria purtroppo è uno di questi esempi. Non si riesce ad andare avanti in Consiglio di sicurezza per le diverse visioni che animano soprattutto i membri permanenti. Abbiamo una situazione decisamente tragica all'interno del paese, che combattimenti che hanno causato migliaia di morti, centinaia di migliaia di rifugiati, 1,5 milioni di rifugiati interni, cioè di persone che si spostano all'interno della Siria per evitare i combattimenti. Questa è una situazione estremamente pericolosa per la Siria stessa, ovviamente, pericolosa per le ripercussioni e le conseguenze sul piano regionale, tenuto conto anche della posizione geostrategica della Siria, ed è una tragedia ovviamente per tutti i rifugiati. Un'ultima cosa, ambasciatore, il Presidente del Consiglio Monti è già venuto all'ONU, ha avuto degli incontri col Segretario Generale, insomma ha avuto gli incontri bilaterali, però è il suo debutto nel contesto dell'Assemblea Generale, dove tutti i capi di Stato e di Governo in genere partecipano. Ecco, qual è una sua valutazione su questo debutto? Il Presidente Monti viene in Assemblea Generale, farà il suo intervento nel dibattito insieme a altri 120 capi di Stato e di Governo. È un messaggio significativo da parte dell'Italia, che torna da protagonista in Europa e anche da protagonista nel mondo. La credibilità che il Presidente Monti è riuscito ad avere per il Paese è tale che si somma naturalmente all'attività che viene fatta alle Nazioni Unite e che rende l'Italia un attore estremamente importante di questa grandissima organizzazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Vi ricordo Twitter, questa è la settimana di Social Media Week, vi ho invitato a twittare, twittate su @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam, si è aggiunto alla lista delle celebrities in favore della reelezione di Barack Obama. Il cantante ha raccolto 1,7 milioni di dollari durante una cena privata a cui hanno partecipato il presidente e un'ottantina di invitati. Dei Pearl Jam, Better Man. Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop, till noon, take no more, she practices her speech as he opens the door, she rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love and can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man.